sempre difficile per Carla quando si avvicina il 22 febbraio, purtroppo quest'anno si trova in clinica e non sarà fisicamente con noi a Via Montebianco come tutti gli anni, quando ci ha sempre accolto con la sua grande dignità e la sua forza d'animo, ma ovviamente sarà con noi con tutto il suo affetto e tutta la sua forza, per cui mi sembra il minimo che gli mandiamo un caro saluto. Parliamo di Valerio, parliamo di una storia che conosciamo bene, una storia che ha segnato i suoi compagni, le sue compagne, il movimento tutto per quell'infame, barbaro, maledetto assassinio del 22 febbraio 1980. L'assassinio di un compagno come tanti che nella seconda metà degli anni 70 si iscrive al liceo Archimede, un liceo storico della sinistra romana, sia della sinistra istituzionale che della sinistra di movimento, un liceo fortemente antifascista che in quegli anni, proprio perché caratterizzato politicamente da un antifascismo serio, profondo, articolato, spesso e volentieri veniva preso di mira da assalti squadristi da parte dei gruppi fascisti dell'MSI o di terza posizione che gravitavano intorno al quarto municipio, allora quarta circoscrizione. Un liceo in cui Valerio si forma come tanti altri compagni in quegli anni partecipando alle lotte studentesche, promuovendo le lotte internazionaliste, partecipando con il suo collettivo, il collettivo autonomo Archimede, insieme ai vari comitati e collettivi dei quartieri di Montesagro, di Valmelana e Tufello, alle importanti lotte sociali che si svolgevano alla seconda metà degli anni 70 a Roma, in particolare in quel quadrante. Valerio, un compagno, per quello che ho raccontato, per quello che i suoi compagni mi hanno raccontato in tante interviste che ho fatto in questi anni, un compagno determinato, serio, un compagno che ha sempre messo la solidarietà e la generosità al primo punto della sua azione politica, oltre a un'intelligenza riflessiva, come tanti hanno testimoniato, non da poco. Un compagno sempre in prima fila nelle lotte antifasciste, un compagno in prima fila nelle lotte del suo quartiere, un compagno che si forma in un movimento difficile come quello del 1977, un movimento che vede tanti compagni assassinati per mano dello Stato o per mano dei fascisti, e Valerio lo sapeva bene perché, come sappiamo, cercò a sua volta di comprendere, di fare delle controinchieste su questi assassini. In particolare in quegli anni, lo sappiamo, lo ricordiamo sempre, furono assassinati compagni come Walter Rossi, come Roberto Scialabba, come Ivo Zini, compagni assassinati dai fascisti, compagni che Valerio magari non conosceva di persona, ma che ha cercato lui stesso, insieme al suo collettivo, insieme all'intero movimento, ovviamente, di mantenere alta la memoria e cercare di capire chi e perché li aveva assassinati. Su alcuni di loro sarà poi la magistratura a fare delle inchieste, a trovare gli assassini, su altro non lo fece il movimento, le controinchieste, la storia ci ha insegnato, ci ha ricordato che furono i NAR, fu l'estrema destra nazifascista romana a uccidere questi compagni. E purtroppo, come sappiamo, lo stesso Valerio verrà ucciso il 22 febbraio 1980 dagli stessi NAR. Una storia che i suoi compagni e le sue compagne hanno sempre raccontato fin da quel giorno, hanno sempre chiaramente indicato nei NAR, nella galassia nazifascista romana, i mandanti e gli esecutori di quell'infame omicidio. Giova un attimo ricordarlo. Gli omicidi dei compagni sono stati tutti terribili, su questo non c'è dubbio, però non era mai accaduto che qualcuno entrasse dentro casa di un compagno, sequestrasse i genitori, li legasse a letto, li tenesse sequestrati per un'ora, procedesse a una, come dire, perquisizione sommaria della stanza di Valerio, lo attendesse e gli sparasse alla schiena. Ecco, fra i tanti infami omicidi di quegli anni, purtroppo quello di Valerio è stato senz'altro il peggiore. Per questo destò una ferita, una rabbia enorme in quegli anni, e una ferita, una rabbia che sono ancora vive a distanza di 32 anni. Per questo che ancora Valerio viene ricordato così con affetto da un lato e rabbia dall'altro per quello che è accaduto, per quella che era stata la vita di Valerio, così tanto, insomma, amato dai suoi compagni e delle sue compagne. Basta ascoltare le tante testimonianze che lo ricordano, in primis quella di Carla, ovviamente, ma anche la rabbia per questo omicidio così, così infame. Senti, io appunto, come ti avevo già detto, avevo preparato queste racconti un po' della che mandammo 2 anni fa, e ti ricordo un po' del periodo della scuola, del racconti, insomma, di amici di Valerio che io oggi, insomma, vi riproponiamo. Quindi ci andiamo ad ascoltare questi due racconti, testimonianze, e poi ritorniamo in studio. Eravamo organizzati fondamentalmente con un piccolo servizio segreto. Nel nostro piccolo avevamo creato una cosa incredibilmente efficiente. Innanzitutto ci avvicinavamo a manifestazioni dell'estrema destra o al loro luogo di ritrovo, e quindi venivano scattate foto. Tramite quelle foto poi cercavamo di identificare tutti quelli che stavano davanti a un bar o con un gruppo o che avevano partecipato a qualche manifestazione. Veniva fatta la raccolta di tutti gli articoli di giornale che parlavano di arresti effettuati nell'estrema destra. Avevamo un archivio fotografico, avevamo un archivio storico con tutti i fatti dell'estrema destra, avevamo informatori infiltrati all'interno dell'estrema destra che ci fornivano informazioni. Tutto questo finiva poi in un quaderno in cui venivano catalogati in ordine alfabetico tutte queste persone, con indirizzo, nome, cognome, numero di telefono, se ce l'avevamo, se riuscivamo a reperirlo, abitudini, che tipo di ambiente frequentavano, se era proprio estrema destra, tipo terza posizione o movimenti di questo genere, o magari solo di destra, e se partecipavano a eventuali spedizioni contro i compagni, o se avevano partecipato ad atti di violenza contro i compagni, queste cose qui. C'era la nascita di NAR, nel dossier i nomi vengono fatti, anche alcuni episodi, anche alcune riunioni che loro avevano avuto per preparare tutto questo. In quel momento si aveva la sensazione che da un momento all'altro ci potesse essere un colpo di Stato da parte della destra in Italia e che quindi bisognava prepararsi a contrastarlo in qualche maniera. C'avevamo l'esempio del Cile, dell'Argentina, i dati servivano, se succedeva qualcosa, quel qualcosa non è successo, i dati sono rimasti lì. Chi se queda la clave? Estás escuchando Radio Onda Rosa. La entrañable transparencia. 87.9 FM. De tu querida presencia. Radio Onda Rosa. Radio Onda Rosa. Comandante Che Guevara. Stavo parlando del liceo del 75, in poi ovviamente sono anni turbolenti, anni in cui c'è anche dopo il 68 e 69 comunque continua una grossa conflittualità di classe, col lavoro, gli operai, ovviamente il movimento degli studenti con varie organizzazioni, ma anche proprio l'assemblea funzionava dentro i vari istituti. E l'assemblea chiamava, organizzava momenti di propaganda, momenti di costruzione di attività. Questi momenti che venivano interrotti spesso e volentieri da purtroppo loschi figuri che continuano a intervenire anche ad oggi. I fascisti sono stati la manodopera dei padroni su questo, e lo sono, su questo non ci sono dubbi. Cui gli studenti, dei ragazzini di 14-15 anni si dovevano per forza di cose confrontare. Diciamo, lo studente si trova coinvolto nella sua stessa essenza di studente, cioè devi difendere la scuola perché vengono o stanno venendo i fasci da... Così è una delle situazioni. Cominci a conoscere i più prepotenti, cominci a conoscere quelli più in vista e poi ti accorgi che si muovono, che sono liberi, che sanno dove sei, che ti aspettano sotto casa, insomma. E a qualcuno, siccome l'inchiesta era comunque l'inchiesta... Era una forma molto usata dopo diciamo dal 68 in poi, ma penso comunque nel movimento di classe è sempre stata usata. E Valerio Verbano, in mezzo appunto a queste situazioni turbolente, è stato un ragazzo che poi abbastanza in silenzio si era armato di una macchinetta fotografica. Un giorno lo vedemmo arrivare appunto con la macchinetta fotografica, stile giornalista, aveva cominciato a fare la sua, diciamo, la sua opera di ricerca, di ricostruzione, di controinformazione di quello, insomma, che poteva avvenire nel territorio romano. Stiamo parlando di Valmelaina Tufello, anche se la scuola è Nuovo Salario, in un posto un po' più alto locato, però insomma, i quartieri sono Montesacro Basso, il villaggio Angelini, c'erano ancora le baracche, che adesso noi pensiamo solo ai zingari, non mi ricordo precisamente quando le leveranno, ma Prati Viscali Vecchia se la ricordano ancora tutti quanti, ancora nel quartiere se ne parla, insomma. Quindi le zone erano zone popolari, Piazza dei Lugani è una piazza del Tufello dedicata ai partigiani, via Scarpa, dove sono i morti delle Fosse Ardeatine, insomma, un immobile che sta lì a via Valmelaina viene soprannominato Stalingrado. Insomma, i quartieri sono quartieri in cui almeno un terzo sono case occupate, da Montecelvialto, via Gabriele Casati, Serpentara Alta. E per esempio, tra le altre cose, ci ricordiamo le scorribande dei picchiatori a chi faceva i presidi sotto le case, o addirittura i picchetti contro i picchetti degli operai. Quindi non era un problema, tanto un problema studentesco, quello di confrontarsi con una violenza di destra che il padrone, diciamo, ha sempre usato. La nostra scuola, l'Archimede, sì, è stata una scuola, era molto molto mobile, c'era la FIGC, tutte quante, diciamo, le varie sfaccettature, c'erano tutte, nel senso, sì, ma la FIGC da allora a confronto adesso sarebbero rivoluzionari, nel senso, se ci fosse la stessa mobilizzazione. In questi tempi comunque o erano costretti a inseguire l'onda, ma anche il Senato stesso era costretto a inseguire i nuovi giovani che si sono inventati lo sciopero selvaggio nelle fabbriche del nord, sono stati immigrati del sud a metà, il gatto selvaggio, insomma, forme di sciopero che il sindacato non riusciva a contrastare e a contenere. Diciamo che comunque una cosa che mi era venuta di pensare questi giorni è che comunque dei ragazzi, ragazzini, 14-15 anni, si trovavano comunque a dover affrontare dei ruoli che forse qualche adulto avrebbe dovuto affrontare meglio, insomma, perché la sicurezza della democrazia, salvo la democrazia, non poteva passare attraverso la difesa dai servizi segreti, dalla polizia, dai fascisti e da contatto, insomma, da chiunque, insomma, arrivavano denunce, cioè il preside denunciava ai questori i compagni più attivi, quei studenti che si mettevano in mostra di più alle assemblee. Le assemblee comunque sono man mano che si andava avanti, 70-77, sono state osteggiate sempre di più, attenti a infiltrati, attenti, cioè, ogni motivo era buono per non entrare nei contenuti. E alla stragrande maggioranza, se non si faceva appunto contro inchiesta, se non si andava a vedere e a cercare quelle collusioni che ci potevano essere fra queste varie figure, se non c'era qualcuno che rischiava comunque e lo faceva, tante cose, anche se sulle stragi, comunque sulle grosse stragi in Italia, mi sembra che non è che ci sia sta pazienza. Si sa la matrice politica, vabbè, quella è certa, però ovviamente gli occulti, i padroni occulti restano sempre abbastanza oscuri, nonostante il sacrificio dei ragazzi come Valerio, ma non solo, a Milano, cioè ce ne sono stati dappertutto, insomma, Rostagno, comunque ce ne sono, insomma. Allora, 87.9, queste erano appunto due testimonianze, racconti che ci hanno un po' inquadrato quel periodo. At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. Stiamo parlando sempre di Valerio Verbano, io ti riaccendo anche il microfono, ma abbiamo anche una telefonata di una compagna che ci voleva dire una cosa rispetto, insomma, alla violenza di quel periodo, non riferita soltanto all'uccisione di compagni, ma anche un po' a tutto un periodo, giusto? Sì. A me ha fatto molta impressione, a parte ripensando, c'ho una certa età, come si dice, ripensando a quegli anni, risentendo adesso i compagni che parlavano, no? Mi veniva in mente il periodo in cui pure noi eravamo preoccupati perché c'era quest'aria da colpo di Stato, insomma. C'erano i sindacalisti che venivano invitati da CGIL, di cui noi conosciamo le diciamo figli e figli che stavano magari a lotta continua con noi, eccetera, che ci dicevano sono andati a dormire fuori stanotte, insomma, quindi il clima era questo. Io credo che però ci sia stato da parte dei fascisti, e non a caso da parte loro, un salto di qualità nella disumanità della lotta politica. Uno è stato Valerio. Prima ancora di Valerio c'era stato il Circeo, dove due giovani proletarie romane erano state scelte perché proletarie e violentate e ammazzate. Una si è salvata per un pelo, rimanendo tutta la notte abbracciata al cadavere della sua amica dove l'avevano messa in un portabagagli. Questa si è salvata per un pelo, l'ha pagata lo stesso perché dopo pochi anni, 10 anni, 15 anni, è morta di tumore, insomma, diciamo così. I fascisti hanno raggiunto un livello di disumanità che però nella storia non è nuovo, se noi pensiamo a quello che hanno fatto storicamente. E veramente mi veniva da citare Giorgio Bucca, che appunto, come dicevo, non è stato certo un rivoluzionario, il quale però è stato un partigiano e diceva che di fronte al peggior comunista il miglior fascista faceva schifo, sempre, sempre. Questa è una cosa che ci dobbiamo tenere bene in mente. Un'altra cosa che volevo dire, che mi sembra una buona cosa, visto i tempi e vista l'aria, che ho sentito che il comune di Milano dedicherà una piazza a Fausto Iaio, altri due compagni giovanissimi ammazzati come bestie a Milano in quegli anni, credo che fosse il 78 allora. Per quanto riguarda Valerio, io spero che oggi saremmo in tante e in tanti. Domani di essere in tante e in tanti e di capire che non è una commemorazione, ma che bisogna star presenti nelle cose, che bisogna esserci e bisogna, questa è la resistenza nostra purtroppo, e bisogna continuare a dire come sono andate le cose e a far sapere la verità alla gente, insomma, ecco. Ti ringraziamo. Ma figurati, ciao. Ciao. E infatti diciamo che noi continuiamo a parlarne proprio per questo. E la cosa che insomma, appunto, Valerio faceva un lavoro dossier quotidiano, di mappatura, no? Perché poi penso che in quegli anni, ma insomma anche anni prima, anni dopo, comunque tanta gente appunto faceva dei dossier, tanta gente cercava, come anche forma di difesa, perché poi la miglior difesa è la conoscenza del nemico a tappeto, insomma, saper bene come si muove, quello che fa, eccetera. E diciamo, penso che anche in quest'anno in cui si metterà, insomma, sabato, anche questa targa della scuola di Valerio, eccetera, e anche ho visto anche il manifesto rispetto agli studenti, sicuramente, insomma, un messaggio del lavoro di Valerio, di trasmissione di memoria, di controllo, racconto di quello che succede nei propri territori rispetto ai fascisti, ma immagino, insomma, anche rispetto alle collusioni che i fascisti hanno con altri apparati e che controllano, penso, insomma, anche al mondo dello spaccio, eccetera. Penso sia importante questo, no? Questo è il messaggio forse più importante, o comunque tra i più importanti, che Valerio ci ha lasciato. Valerio e il suo gruppo di compagni e compagne iniziarono un lavoro di controinchiesta, controinformazione sul finire del 77, mettendosi su una scia decennale, insomma, perché il movimento da tantissimi anni produceva materiale di controinformazione su chi erano i fascisti, sui loro agguati, sui loro assassini, sui loro collegamenti con apparati dei servizi segreti, dei carabinieri, della polizia, sulle loro coperture politiche. Lo sappiamo bene, quando Valerio inizia a fare questo lavoro di controinformazione era sul finire del 77, c'era già stata Piazza Fontana, c'era già stato l'omicidio di Paolo Rossi nel 66 all'università, di Domenico Congeto nel 69 sempre all'università, c'era stata la strage di Brescia. I fascisti si erano organizzati, armati più e più volte, erano usciti tutti impuniti dalle stragi dagli omicidi, dagli agguati, dagli assalti, anche se poi negli ultimi anni una serie di giornali stucoli ha raccontato un'altra storia, dando voce ad assassini come Fioravanti, La Mambro e compagnia bella, che hanno raccontato una storia completamente falsa, quello dei poveri camerati chiusi in un angolo attaccati dai compagni, e le cose erano andate ben diversamente. Insomma, il primo morto a Roma, lo ricorderò sempre, fu appunto Paolo Rossi nell'aprile del 66. Non ci fu nessun processo per Paolo Rossi, il giudice istruttore archiviò la morte come un incidente, e di Paolo Rossi non si è più saputo chi l'ha ucciso, anche se poi ci sono, insomma, delle fotografie chiarissime che ritraggono il momento della rissa. Ma questo tanto per dire, insomma, l'impunità che hanno avuto questi signori. Dopodiché il lavoro di Valerio appunto si inserisce in un percorso molto ampio, insomma, perché sia la sinistra di movimento extraparlamentare, da lotta continua all'autonomia, a potere operaio, ma lo stesso Partito Comunista, la stessa FIGC, negli anni, in quel decennio, hanno fatto diversi dossier di controinformazione, alcuni pubblici usciti su Lotta Continua, alcuni sull'Unità, in cui veniva fatto nome e cognome degli squadristi fascisti, delle loro aggressioni, delle sedi, dei bar da dove partivano questi gruppi di nazifascisti per colpire gli studenti, i compagni e le compagne, o come l'orribile strage del Circeo di cui ci ricordava prima la compagna. Valerio inizia questo lavoro importante in un momento importante, insomma, dopo l'assassinio di Walter Rossi, dopo che c'era stato un nuovo agguato al liceo Archimede, dopo che i fascisti, in un anno per loro difficile, perché oggettivamente nel 76 un grandissimo movimento aveva dispiegato la sua forza nella città di Roma e quindi li aveva, sì, veramente costretti un po' all'angolo, i fascisti rispondono in quel modo, ovvero da dietro i blindati a Via delle Medaglie d'Oro sparano a Walter Rossi, ben coperti da polizia e carabinieri, e come sappiamo, insomma, nessuno fu mai condannato per quell'omicidio, in quanto Cristiano Fioravanti, collaboratore di giustizia, accusò il suo ex amico camerata Ali Brandi di aver ucciso Walter Rossi. Ali Brandi era già morto, quindi quale cosa migliore che accusare un morto. Valerio inizia questo lavoro di controinformazione perché capisce che un nuovo gruppo di fascisti inizia ad agire in città e inizia a studiare per cercare di capire chi sono, cosa fanno, quali sono i loro collegamenti, e scopre una serie di informazioni sul fatto che questi nuovi fascisti legati all'area di Narra Terza Posizione, come poi abbiamo scoperto bene con la storia e via dicendo, hanno dei legami forti con la nascente banda della Magliana, in generale con la criminalità organizzata, che hanno delle coperture importanti all'interno di polizia e carabinieri, che nonostante tutto vengono protetti dal loro grande partito, l'MSI, che non l'ha mai ovviamente abbandonati fino in fondo, insomma, nonostante personaggi come Fioravanti raccontino un'altra storia. Valerio si inserisce in questa storica percorso di controinformazione del movimento e mette su quello che poi abbiamo conosciuto come dossier Verbano, per il quale si dica, insomma, che poi verrà ucciso proprio per questo. Allora, noi facciamo un altro stacco di testimonianze, ci andiamo un po' a far inquadrare sempre da persone che quegli anni c'erano e l'hanno vissuto, un po' quello che succedeva. Il movimento dell'autonomia operaia, l'organizzazione, i comitati autonomi e tutte le esperienze successive. In realtà il 77 romano si trascina fino ai primissimi anni 80, le battaglie antinucleari, l'auto-organizzazione dei lavoratori del Policlinico, dell'Enel, insomma c'è un'espressione, una ricchezza generale in cui sicuramente nelle difficoltà determinate da una fase nella quale si deve fare i conti con quello che accade, con l'assalto cosiddetto al cuore dello Stato e quindi la vicenda innescata dal sequestro e dall'omicidio di Aldo Moro, comunque Roma mantiene una sua radicalità di comportamenti e di forme d'organizzazione autonome rispetto ai sindacati, ai partiti, al quadro istituzionale, che comunque è una caratteristica forse, e in questo saremo forse romanocentrici, insomma, è una caratteristica molto, molto centrata appunto sulla metropoli per come la conosciamo in quegli anni. In questa forma d'organizzazione reticolare, insomma, per chi l'ha vissuta tutta la polemica tra l'autonomia centralizzata e l'autonomia diffusa, ci sono una serie di fatti che avvengono e che vedono ricomporre esperienze diverse nell'ambito, per esempio, degli attivi territoriali, nell'ambito di forme organizzative cosiddette di movimento. Ora, non voglio annoiare chi mi sta ascoltando sul problema rapporto Soviet-partito, però insomma una ricchezza di riflessione che in qualche modo cerca di tradursi materialmente nella capacità di dare sostanza organizzativa a migliaia e migliaia di giovani che mantengono fermo il loro punto di vista, che è un punto di vista critico nei confronti dell'esistente. In questa vicenda Valerio, al pari di altre centinaia di compagni, misura il suo impegno sulla necessità di contrastare i fascisti. Chi sono i fascisti? I fascisti sono quelli che hanno rapporti con il mercato nascente, massificato della droga, e per certi versi anche la vicenda di Fausto e Iaio di Milano rimanda allo stesso tipo di problema. Sono quelli che hanno rapporti con le forme di criminalità organizzata nascente e che naturalmente vedono con un certo fastidio la presenza, diciamo, di istituti consolidati di rappresentanza popolare, proletaria, operaia dentro i quartieri, al di là, voglio dire, di tutte le questioni cinematografiche o narrative sulla banda della Magliana, però insomma questa è in sostanza la vicenda. Certo, Giuseppucci ne era un amico di compagni, insomma, tanto per segnare, né Danilo Abbruciati. E insieme a questi connubi che hanno formato oggetto poi di tanta narrativa e letteratura specialistica sul campo, ci sono dall'altra parte quelli che, insomma, non gli sta bene lo spaccio di rovina, non guardano con particolare favore alla presenza dei fascisti davanti alle scuole, che si impone con modalità aggressive, violente, eccetera, e si organizzano per contrastare questi signori. La storia di Valerio è questa, quella di tanti altri compagni che come lui hanno dato battaglia nei confronti dei fascisti nei quartieri e davanti alle scuole. Voglio ricordare che la lapide che oggi è sotto casa di Valerio, noi provammo ad apporla nel settembre del 1980, dopo sei mesi dall'omicidio di Valerio. Anche in quell'occasione la questura di Roma ci impedì, o meglio, voleva impedirci materialmente di manifestare per ricordare in quella forma Valerio attraverso la posizione di questa lapide. E a seguito di quegli episodi, perché naturalmente noi non accettammo il divieto della questura, a seguito di quegli episodi per un lungo periodo anche convocare delle manifestazioni in via Montebianco per ricordare Valerio creò una serie di problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma noi insomma dell'ordine pubblico ce ne siamo sempre fregati per certi versi, e quindi abbiamo continuato a manifestare. Allora, ritorniamo in voce, diciamo che sicuramente, appunto, un po' anche come ci ha raccontato insomma, questo compagno, ricordiamo, insomma, questi sono racconti e testimonianze che abbiamo realizzato in radio ormai due anni fa per il trentennale dell'omicidio di Valerio Verbano. E insomma, tutta una situazione, è ovvio che in un momento così, soprattutto a Roma, così forte, insomma, come ci raccontava anche lui, in cui sono c'è tanto fermento a Roma, i compagni sono tanti, le manifestazioni sono grosse, c'è anche una fermezza nel mantenere i territori, nel proteggerli, nelle lotte, un'unione e via dicendo. È ovvio che poi la risposta dello Stato, così come la risposta per mano dei fascisti, è quella di ammazzare, colpire appunto i compagni, piuttosto che anche questa questione del Circeo. Le donne in quel periodo, insomma, stavano portando avanti delle battaglie serie, forti, stavano in piazza e via dicendo, le categorie della lavoro, eccetera. Quindi si inserisce anche l'omicidio di Valerio Verbano, ovviamente, in tutto un contesto. Io non so, insomma, mi piacerebbe ritornare anche un po' all'oggi, poi ci andremo a sentire l'ultimo racconto che ci fa un po' un resoconto, insomma, tra i fascisti di ieri, i fascisti di oggi, e con quello concludiamo. All'oggi ed è la giornata di domani e la giornata di sabato. Sì, diciamo che oggi sono passati 32 anni e come dicevo anni. Prima, sì, l'affetto, anche per chi non l'ha conosciuto, e la rabbia per quell'omicidio sono ancora fortissimi. E ricordiamo che in questi ultimi anni Valerio è tornato, è sempre stato un compagno, ovviamente un omicidio ricordato dai compagni e le compagne. Ogni 22 febbraio si è sempre tenuta una manifestazione in quel di via Montebianco, anche come ricordava il compagno prima, questa registrazione, anche quando polizia e carabinieri hanno cercato di impedirlo, l'hanno impedito materialmente. Mi piace ricordare che in questi ultimi anni incredibilmente è aumentato il numero di compagni e compagne, soprattutto giovani che partecipano alle diverse iniziative per Valerio Verbano. Insomma, 5 anni fa fu occupata una palestra nel quartiere Tufello, una palestra che tuttora è attivissima, una palestra popolare con il nome di Valerio Verbano, per cui quel nome, quella lotta, quell'impegno restano ormai proprio scolpiti nel suo quartiere, anche grazie a questa palestra. E per cui ci sono state sempre manifestazioni, ma in questi ultimi anni sono aumentate ancora di più. Ci sarà domani la classica giusta manifestazione in via Montebianco. Ricordo gli appuntamenti, che alle ore 16 c'è appuntamento un fiore per Valerio, venire a portare un fiore a via Montebianco sotto la targa che lo ricorda, una targa che più volte i fascisti hanno oltraggiato facendo scritte, distruggendola, facendoci svastiche sopra, insomma, fin da un omicidio, un nome che ancora oggi, insomma, scatena. Scatena, sì, delle reazioni violente. Insomma, alcuni mesi fa giovani compagni dei collettivi studenteschi di Ostia avevano fatto un piccolo murales dedicato a Valerio Verbano, che è stato immediatamente oltraggiato da questi infami fascisti che l'hanno ricoperto di scritte e l'hanno cancellato. I compagni e le compagne di Ostia l'hanno prontamente restaurato, insomma, e ogni tanto i fascisti ci provano. Ricordiamo che alcuni, che quasi un anno fa, cercarono di occupare in maniera provocatoria una scuola proprio a Piazza Capri, a due passi da via Montebianco, e ci fu una risposta di massa determinata da parte del movimento che disse: beh, proprio qua non occupate, non ci pensate per niente, e i fascisti la sera stessa se ne andarono. Insomma, una vicenda non sto a raccontare, i compagni e le compagne ascoltano la radio, la sanno bene perché se ne è parlato tanto. Per cui ancora più importante è scendere in piazza. Domani alle 17 ci sarà il corteo che parte da via Montebianco, che attraverserà tutto il quartiere nel nome di Valerio, con striscioni, bandiere e via dicendo. E poi questa cosa di sabato importantissima, per fortuna, insomma, grazie alla determinazione di un gruppo di compagni e compagne, dopo 32 anni si è riuscito a ottenere di poter mettere una targa al liceo Archimede in via Vaglia, lo storico liceo dove andava Valerio Verbano, una targa che lo ricordi, che ricordi agli studenti che frequentano quel liceo chi era Valerio, qual era il suo impegno antifascista. E ricordiamo anche lì gli attacchi che ci sono stati negli anni passati, insomma, proprio quando gli studenti volevano ricordare Valerio, insomma, scritte, cose, sono entrati i fascisti e via dicendo, quindi insomma, sì, anche lì. Sì, è una cosa che è successa sempre, soprattutto poi negli ultimi anni, in cui questa canaglia nazifascista ha ripreso un po' vigore in città. Spesso sono andati anche all'Archimede a fare scritte e a infangare la memoria di Valerio, per cui siamo felicissimi che sabato mattina alle ore 11 verrà messa una targa in ricordo del compagno Valerio Verbano. Va bene, noi poi ricordiamo che sempre mercoledì sera al Dipartimento di Igiene, alla Città Universitaria La Sapienza, ci sarà appunto questo Reg Against Fascism, quindi Reg contro il fascismo, contro la crisi e i sacrifici. Facciamo la festa al governo Monti, Reg Line Up, Radio Tour, In Cantina Sound, Cool Runnings e Dai pure te. Questo a Igiene la sera di mercoledì. Noi vi mandiamo questa ultima racconto, resoconto, insomma, testimonianza che ci fa un po' come ultimo racconto i fascisti di ieri, che non sono scomparsi, non sono morti, non sono sono ben, alcuni stanno ai posti di comando, appunto, del sono comune di ben Roma, radicati soprattutto nella nostra città, visto insomma che negli ultimi anni, soprattutto con la giunta Alemanno, sono stati, gli sono stati dati anche dei posti di lavoro e di potere non indifferenti. Per cui ci andiamo a sentire questo piccolo contributo e poi ritorniamo in studio per i saluti. Se in quella stagione il Movimento Sociale Italiano tiene relazioni con questi gruppi, chiude o meno le sedi quando le può controllare, cioè cerca di evitare, diciamo, di finire direttamente con le mani nel sacco in vicende giudiziarie, no? Che espongano proprio i militanti, succederà, c'è Saccucci, ci sono altri, ci sono esponenti della MSI che finiscono indagati per vicende violente, per vicende dove ci sono morti, eccetera. Ma in qualche modo il tentativo sarà di tenere, come sempre è stato nella MSI, come accadde già negli anni 60, nei primi anni 70 con inchieste sulla strategia della tensione, tenere dentro e fuori ad esempio i membri di Ordine Nuovo. Pino Rauti figurava nel comitato centrale della MSI insieme a Almirante, ma era anche il fondatore del movimento politico a cui si ascrive almeno l'idea, la costruzione ideologica della strategia delle bombe. L'MSI fa lo stesso alla fine degli anni 70 e che cosa accade? Accade che figure importanti come quella che guida oggi il Comune di Roma, il sindaco Gianni Alemanno, si faranno alla fine di quella stagione. Si diceva prima 77-78 l'omicidio di Roberto Scialabba a Cinecittà, diciamo che questa stagione di violenza, se la si vuole circoscrivere, i Vozzini, si può forse dire che va da, diciamo, dal 77 alla strage di Bologna, insomma, per capirci. Strage di Bologna, 2 agosto del 1980, la più grande strage fascista della storia italiana, in cui peraltro questi giovani che si erano mossi, si parlerà di spontaneismo armato, è passata la storia in questi termini, perfino Gianfranco Fini, ammettendo le poche cose che da destra sono state dette sulle responsabilità nella stagione di violenza del neofascismo, ha detto che cosa fu il terrorismo di destra, ed è la, diciamo, il massimo dell'espressione di un leader politico nazionale su quella vicenda, della destra intendo dire, fu spontaneismo armato, cioè furono gruppi poco organizzati che al massimo rispondevano alla violenza. La violenza, in questo caso evocata, è quella del gennaio del 1979, vale a dire a Calarenzia, cioè dell'omicidio di tre giovani missini. E dicevo, in questo spazio di anni si consuma questa stagione di violenza. Ebbene, quando finisce questa stagione di violenza, c'è chi opera, e i risultati li vedremo in qualche modo 15 o 20 anni dopo, per ricondurre alla politica chi è passato per quella stagione di violenza. Ovviamente magari non chi, chi ha avuto le vicende processuali più gravi, ma insomma c'è un po' di tutto. E così in realtà negli anni 2000 noi ritroviamo una parte consistente della leadership di terza posizione a Roma, all'interno di Alleanza Nazionale, e oggi in un ruolo di primo piano nel PDL, tanto da comporre una corrente nazionale del partito del Presidente del Consiglio. E troviamo esponenti di terza posizione nelle riviste importanti che hanno costruito, diciamo, il ruolo politico di Gianni Alemanno, e troviamo figure di questo tipo nel Consiglio Comunale, in ruoli importanti, adesso senza stare a fare i nomi, o troviamo figure, diciamo, che sono passate per quella stagione, che vengono celebrate, ricordate come figure di riferimento, come coloro che hanno indicato la via, perché evidentemente quella stagione che noi viviamo come una stagione soltanto di violenza e di terrorismo, però qualcosa aveva detto. Che cosa aveva detto? Ma qui siamo, diciamo, nell'arco delle ipotesi. Probabilmente aveva detto che la destra stava immaginando un superamento dei propri limiti di radicamento sociale e territoriale, no? Il sogno di terza posizione era l'idea di inventarsi una presenza nei quartieri proletari, occupare le case, no? Era tutto metapolitica per i fascisti, che poi nei quartieri popolari c'entravano magari solo armati o scortati, no? Per quello che si è detto. C'era però quest'idea. All'epoca fu vissuta come un'offensiva violenta, cioè si cercò di imporre questa presenza. Molti anni dopo, ma con vicende politiche che non hanno nulla a che fare con le cose di cui stiamo parlando, cioè a partire dal dopo Tangentopoli, quella condizione si è potuta proporre, questa volta sulla base di un consenso. E quindi in qualche modo, l'ho detto in modo un po' rozzo, ma è come se quell'eredità che però porta all'interno ben celata una stagione di violenza e di desiderio esplicito di eliminazione fisica e di morte, sia stata e sia oggi, diciamo, all'interno dell'albero di famiglia, forse della parte più importante di quella destra italiana, sicuramente romana, che si candida ad avere un'egemonia nella città, se non nel paese. E questo è, diciamo, un qualcosa che rimane lì, su cui si è indagato poco, si è discusso poco e su cui quell'ambiente noi l'abbiamo messo insieme un po' confusamente, è evidente, non erano tutta la stessa cosa, l'MSI, INAR, terza posizione, chi sparava, chi non sparava, ma un ambiente, diciamolo anche tutto sommato, ristretto nei numeri nella città di Roma, qualche centinaia, forse qualche migliaia di persone al massimo, mai i numeri ovviamente della sinistra rivoluzionaria, cioè elemento, diciamo, di massa, se così può dire. E lì dentro alcuni percorsi, magari non condivisi sul piano logistico e pratico, sono stati, se non condivisi sul piano politico, perlomeno se ne è avuto sentore. E quindi effettivamente chissà parli, cioè effettivamente c'è poco da fare un esame di democrazia a questa destra, che oggi ci dà prova con le scelte attuali di che cos'è. Però certo, pensare che ci siano anche delle radici in quel tipo di passato, in quel tipo di cultura di morte, beh, insomma, ci fa dire che forse qualcosa in più potrebbe venire fuori, insomma, e non solo dalle indagini della magistratura. Allora, ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 17, sotto casa, alle 16 anzi, Porta un fiore a Valerio. Tutti gli anni, prima del corteo, c'è questo appuntamento per portare un fiore a Valerio, e per le 17 ci sarà il corteo per le strade di Valmelaina, Tufello, come ogni anno. Noi volevamo concludere anche con un saluto a Carla. Sì, mandiamo un saluto a Carla, e come detto all'inizio della trasmissione, si trova ricoverata ormai da 15 giorni. Purtroppo non sarà domani per la prima volta, non sarà a Via Montebianco, ma sarà ovviamente con noi, con tutta la sua forza che ci trasmette. Le facciamo un saluto e le mandiamo gli auguri di pronta guarigione. Per quanto riguarda la radio, noi questo redazionale lo terminiamo qui, ricordandovi, insomma, che parleremo e continueremo a parlare di Valerio tutta la settimana.